Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa prima puntata del 2022 andremo ad approfondire i principali provvedimenti assunti dal Consiglio regionale in tema di agricoltura, trasporti e mobilità, cooperazione internazionale e cultura di pace. L'Assemblea Legislativa ha iniziato l'anno promuovendo una nuova legge sull'agricoltura sociale. La norma è stata approvata a larghissima maggioranza con la sola astensione di Fratelli d'Italia. Le nuove misure riguardano le fattorie che si dedicano ad attività di integrazione delle persone più fragili e offrono particolari servizi in ambito socio-assistenziale ed educativo. Ascoltiamo il relatore della legge, Stefano Caliandro, del Partito Democratico. L'agricoltura sociale tiene insieme le fragilità delle persone che hanno bisogno di essere inserite e la fragilità anche di un mondo agricolo reso più difficile dalle calamità climatiche, da un nuovo modo di fare agricoltura diverso. Io penso che con questo provvedimento noi sostanzialmente quindi teniamo insieme queste due fragilità, aiutiamo il territorio a crescere, aiutiamo l'impresa a crescere, aiutiamo le persone ad essere reinserite. La dimensione sociale in questo caso consente alle imprese agricole di aprirsi alle comunità. La fattoria diventa così il luogo in cui il lavoro può diventare un'opportunità per le persone più fragili, ma anche nuova fonte di integrazione al reddito per le aziende. Sentiamo il relatore di minoranza, Fabio Regneri, della Lega. Un provvedimento in aiuto sia alle aziende agricole che vogliono diversificare, sia e soprattutto, questo era un po' l'intento, di aiutare le persone che hanno delle problematiche. E seguire i ritmi dell'agricoltura, sia dell'allevamento che delle produzioni, può essere solamente di grande aiuto. La nuova legge regionale sull'agricoltura sociale prevede l'istituzione di un elenco delle fattorie sociali e disciplina il sistema dei controlli sui requisiti e la formazione degli operatori. La Giunta ha annunciato che stanzierà 1,37 milioni di euro, per lo più provenienti dai fondi europei del programma di sviluppo rurale. E ora parliamo di infrastrutture e mobilità. Il piano regionale integrato dei trasporti, conosciuto come PRIT, ha superato l'esame dell'Aula, nonostante il voto contrario di gran parte delle opposizioni e le critiche anche interne alla maggioranza, come quelle di Europa Verde, che ha votato contro, e l'astensione di Emilia Romagna Coraggiosa. Con l'obiettivo di ridurre il congestionamento del traffico del 50% sulla rete viaria regionale, nel piano vengono anche confermati gli interventi per l'autostrada Cispadana, la bretella Campogaliano-Sassuolo e il passante autostradale di Bologna. Sentiamo Andrea Costa del Partito Democratico. Significa un sacco di interventi infrastrutturali, sia stradali che ferroviari per la nostra regione. Significa decongestionare dal traffico i nodi più interessati dal traffico tanto di mezzi pesanti quanto di auto private. Significa grandissimi investimenti sul trasporto pubblico locale. Si tratta di infrastrutture attese da molto tempo dai nostri territori, per le quali finalmente ci sono sia le risorse che anche la pianificazione e i progetti pronti per far partire i cantieri. Critico Massimiliano Pompignoli del gruppo Lega, che si è astenuto sul documento. È arrivato alla spicciolata molto in fretta e con tempi di discussione rapidi. È un documento vecchio, documento del 2019 adattato a oggi al 2021, quindi opere già fatte e all'interno opere che si devono fare ma sulle quali dobbiamo aggiornarle. Un piano datato anche secondo Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, che ha espresso voto contrario. Ecco le sue parole. Non aggiornato alle sfide che la transizione ecologica ci chiede e che ci ha messo davanti la pandemia da Covid-19. Contiene ancora infrastrutture vecchie e obsolete di 40 anni fa. Bocciatura al PRIT anche da Silvia Zamboni di Europa Verde. Ci vuole ben altro oggi, ci vuole sostenibilità anche nella mobilità, perché dobbiamo contrastare i cambiamenti climatici e migliorare anche la qualità dell'aria. Critiche e voto contrario anche da Fratelli d'Italia, da Marco Mastacchi di Rete Civica e da Valentina Castaldini di Forza Italia. Voto favorevole dalla lista Bonaccini. Sentiamo la capogruppo Giulia Pigoni. Contiene opere che aspettiamo da tantissimi anni, come la bretella Campogaliano-Sassuolo, la Cispadana, ma anche l'addendum, quindi un documento sulla mobilità sostenibile. Quindi cerchiamo di tenere insieme in questa regione da sempre l'attrattività del nostro tessuto imprenditoriale ed economico, la mobilità dei privati e il benessere dei nostri cittadini. Cambiamo argomento. Via libera da Viale Aldo Moro al documento di indirizzo programmatico in materia di cooperazione internazionale e promozione di una cultura di pace per il 2021-2023. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza. Migrazione e sviluppo, ambiente e cambiamenti climatici, uguaglianza di genere ed empowerment femminile sono le principali aree tematiche sulle quali si focalizzano gli interventi di cooperazione internazionale della regione Emilia-Romagna nel triennio in corso. I paesi considerati prioritari si trovano nell'Europa balcanica e dell'Est, nell'Africa mediterranea e subsahariana, nel Medio Oriente e in America Latina. Confermato lo storico sostegno ai campi profughi Sahrawi, e da quest'anno i progetti sono rivolti anche alla popolazione afghana. Sentiamo il commento di Igor Taruffi di Emilia Romagna Coraggiosa. Un contributo significativo che va nella direzione di quella solidarietà internazionale che è stella polare, deve essere stella polare per le politiche europee. Ovviamente da questo punto di vista una notazione particolare va fatta anche sul tema vaccinazioni. Noi riteniamo che la vaccinazione debba essere prioritariamente a questo punto estesa a tutti i paesi anche del terzo mondo che fino ad oggi non ne hanno potuto usufruire. Critico sul documento di programmazione Marco Lisei di Fratelli d'Italia. Sentiamolo. Un documento impregnato ancora di quella ideologia immigrazionista che non tiene conto invece delle esigenze del territorio e della nostra nazione, che sono quella prima di tutto del blocco navale di impedire appunto che sul territorio approdino cittadini che sono clandestini, ma soltanto quelli che effettivamente hanno bisogno di assistenza. E per rimanere in tema internazionale, nell'ultima seduta l'Aula ha anche approvato a larghissima maggioranza il piano triennale 2022-2024 della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. Sono previste misure di sostegno alle attività associative che mirano a valorizzare il ruolo della comunità degli Emiliano-Romagnoli nel mondo, borse di studio e aiuti concreti a chi vuole tornare a vivere in regione, nonché uno stanziamento per il museo virtuale Migrer. E per concludere vi segnaliamo che in occasione del Giorno della Memoria sul nostro sito di informazione cronacabianca.eu è stato pubblicato un web doc sui viaggi della memoria realizzati in questi anni grazie al sostegno dell'Assemblea Legislativa e che hanno visto la partecipazione di tantissimi studenti emiliano-romagnoli. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.mr.it e cronacabianca.eu. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.